24 mattino di Alessandro Milan. 7:19 minuti, eccoci, venerdì, e dunque finisce la settimana di 24 mattino. Ci trovate 24 mattino e tradio 24.it, gli sms al 349-238-6666. Che dire, nel nostro sondaggio parliamo ancora degli incidenti di Roma, ancora non l'abbiamo fatto, ma gli strascichi, le polemiche ci sono. Vi chiediamo, il ministro Maroni, che oggi riferirà in Parlamento, ha detto è stata una gestione dell'ordine pubblico ottima. Che ne pensate? Siete d'accordo nel giorno in cui sono stati scarcerati tutti i 23 fermati? Questo è il tema del nostro sondaggio. Votate su radio24.it nell'homepage bianco o nero. E ne parleremo alle 8:30 con ospiti. Ed ora la lettura dei giornali. In primo piano. Venerdì 17 dicembre nasce il fondo UE Salva Stati. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore, che dà anche ampio risalto però all'allarme di Confindustria: delude la crescita dell'Italia. E poi la scelta più gettonata è quella degli scontri a Roma. Scontri a Roma tutti liberi per il Corriere, scontri a Roma tutti liberi per la Stampa, l'ira di Alemanno, assurdo. Per il Giornale premiati i devastatori di Roma, per Libero liberi di bruciare l'Italia. Il Messaggero, guerriglia Roma tutti liberi. Per il Manifesto invece ci sono una foto di persone a terra con la polizia che usa il manganello, il depestaggio. Questo è il Manifesto, tutti scarcerati anche per il Riformista. Insomma, questa è la scelta più gettonata. È il tema del nostro sondaggio, ripeto, ci interroghiamo anche su questo, il fatto che siano stati tutti liberati e con le annesse polemiche. Ma da cosa voglio partire? Da altre segnalazioni. La prima la troviamo sul Giornale. Attenzione, pagina 21, Luca Fazzo: fai il maleducato fuori dal bar, multano il padrone del locale. È una sentenza a suo modo storica del TAR della Lombardia, al quale si è rivolto il signor Eusebio, signore di Milano, che ha una sola colpa, che non è una colpa, vive vicino a Porta Romana, in piazza Medaglie d'Oro, dove c'è un pub abbastanza conosciuto a Milano, il Pogma Ons. Che succede? Che ogni giorno doveva fare, o meglio ogni sera, se non ogni notte, doveva fare i conti con le persone, i clienti del pub, che usciti per fumare una sigaretta, per fare due chiacchiere, facevano un po' di cacciara. E allora si è rivolto al TAR, e il TAR ha dato ragione al signor Eusebio e al comune di Milano, che era sceso in campo anch'esso, infliggendo al pub una sanzione simbolica: la chiusura per un giorno. Una sentenza importante, scrive il Giornale, quella conquistata dal signor Eusebio, perché i giudici hanno stabilito che il padrone di un locale è responsabile non solo di quello che accade tra le sue mura, ma anche di come si comportano i clienti fuori, sulla strada, quando per tirare una boccata d'aria o fumarsi una sigaretta escono col boccale in mano. Se chiacchierano a voce troppo alta, dice il TAR, la colpa ricade sui gestori, che hanno, si legge testualmente nella sentenza, una posizione di garanzia, ovvero non possono lavarsi le mani di quel che accade fuori dalle loro vetrine. Non basta insonorizzare i muri, dice il Tribunale amministrativo, bisogna anche insegnare o imporre la buona educazione ai propri clienti. Eccolo qui, fai il maleducato fuori dal bar, multano il padrone del locale. È una sentenza che ha emesso il TAR della Lombardia, a cui si è rivolto un cittadino di Milano. E dopodiché voglio dare un'altra segnalazione dalla Stampa, pagina 29, che forse dà un po' di speranza, di sollievo a tutte quelle persone che hanno problemi coi capelli. I capelli rinascono dalle cellule staminali. È stata una scoperta del Politecnico di Berlino, di due ricercatori, il professor Roland Lauster e il collega Uwe Marx, che entrambi stempiati ovviamente, che si sono dedicati e si stanno sperimentando un procedimento da anni che potrebbe mandare in soffitta i rimedi contro la calvizie usati finora. E Alessandro Alviani sulla Stampa dice che se un giorno, dopo anni di brucianti sconfitte, di costose operazioni, di alternative fatte in casa, milioni di calvi, quasi calvi o futuri calvi riusciranno a vincere la loro battaglia quotidiana contro lo specchio di casa, dovranno forse ringraziare questi due ricercatori. La soluzione a cui stanno lavorando a Berlino è nelle cellule staminali. Il procedimento sarebbe questo: si sottopone il paziente a una biopsia indolore, si isolano le cellule staminali che vengono riprodotte in laboratorio per ottenere i follicoli da cui poi nascono i capelli. E insomma, per molti potrebbe essere un sogno, anche se c'è un'intervista della Stampa alla ex Iena Marco Berri che dice il pelato è più felice. Sta di fatto che insomma a Berlino, al Politecnico di Berlino, stanno mettendo appunto questa ricerca per recuperare dalle cellule staminali, riformare i follicoli per dare nuovi capelli a chi i capelli non li ha. E allora, pubblicità e meteo, e poi ripartiamo da cosa? Due le notizie principali: le polemiche sulla liberazione, gli scontri di Roma ancora in primo piano, anche perché da mercoledì è annunciata una nuova imponente manifestazione, e poi il teatrino della politica, perché no? 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qui alle 8:22 minuti. Il protagonista della nostra intervista oggi è il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Andrea Franceschi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Come stiamo a freddo innanzitutto? Perché qua... meno 14 stamattina. Accidenti, meno 14. Ci manteniamo bene, dai. Belli, belli coperti, va bene. Senta, sindaco, c'è questa vicenda che un po' da alcuni giorni sta sui giornali. Lei ha definito Lele Mora e il suo codazzo di VIP persone sgradite a Cortina. Non l'ha presa benissimo Lele Mora, eh? No, non l'ha presa benissimo, però insomma confermo il messaggio che è stato lanciato qualche giorno fa, ma ci tengo anche un attimo a specificarlo meglio. Noi non è che ci mettiamo naturalmente a fare l'esame alle centinaia di migliaia di persone che vengono a Cortina ogni anno in vacanza, quindi sicuramente non sono tutti santi, non sono tutti delle persone per bene, però allo stesso tempo noi chiediamo che chi viene a fare la vacanza a Cortina si comporti in una certa maniera, insomma, soprattutto che ci sia rispetto per gli altri, per la località, per i residenti, insomma. Non fa di tutto questo? Cioè, perché ne ha fatte di cotte di crude negli ultimi anni. Faccio qualche esempio giusto per così dare un'idea. Gli è stato sequestrato diversi chili di cibo non mantenuto rispettando le norme igieniche, e non ha rispettato gli orari sulla somministrazione di alcol, non ha rispettato la normativa sull'inquinamento acustico, ha montato una casetta abusiva in centro, ha fatto su e giù per il nostro Corso Italia, un po' la via principale, con tutte queste ragazze e ragazze, veline e velini, lanciando caschi, sì, gadget di ogni tipo, lasciando sporcizia, cantando, insomma, veramente si è comportato in una maniera molto maleducata. Pertanto la nostra non è un no preventivo, ecco, è un no dovuto alla perché Lele Mora dice, io, a parte all'inizio ha reagito malissimo, ha detto non solo vengo, spero di incontrarlo e pretendere scuse pubbliche, vi querelo, poi forse ha cambiato destinazione, no? Verrà o non verrà, non si capisce bene. Ma questo ovviamente non credo che mi manderà un'email per avvisarmi se viene. No, questo no, temo di no. Io credo che farà qualcosa in un paese qui vicino, ecco, da quello che so, che sarebbe? Ce lo dica. Sarebbe San Vito di Cadore, insomma. San Vito di Cadore. Dove anche il sindaco lì, che è un amico, non è che sia proprio al settimo cielo, però. Ecco. Ah, mannaggia, che è Lele Mora adesso. Sa che Filippo Facci su Libero qualche giorno fa ha detto: tocca difendere perfino Lele Mora, uno che mi fa schifo solo a vederlo. Però, insomma, il sindaco che dice che sembra il sindaco di Cortina, un sindaco del Texas con la pistola che dice: qui non lo vogliamo. Insomma, è un po'. Ho letto Facci, ma naturalmente non io accetto anche l'opinione del giornalista, però io sono qui per fare gli interessi di questa cittadina, quindi sinceramente non ho problemi a prendermi le mie responsabilità, come ho fatto anche in questo caso, e anche a difenderle, perché poi ripeto, Basta parlare con qualsiasi cittadino di Cortina o qualsiasi persona che ha fatto le vacanze a Cortina qui negli ultimi anni, non ne troverà uno che rimpianga l'elemora. Quindi, sa l'altra accusa, l'altra accusa che le fanno è questa: ma come Cortina comunque si è basata per decenni sui VIP, mica VIP, VIPini, VIPponi che hanno portato lustro, soldi, adesso prima andava bene, adesso gli voltate le spalle. No, ma a parte che probabilmente bisogna anche definire cosa intende per VIP, perché, ripeto, tutti i ragazzi e ragazze che si accompagnano all'Elemora non è che siano proprio così, così famosi, ma ripeto, la nostra non è un noi VIP, noi abbiamo un sacco di VIP, di industriali, politici, gente dello spettacolo che viene a Cortina da sempre, che è sempre benvenuta e che si è integrata perfettamente con la realtà locale. È solo il modo con cui si approccia la vacanza a fare la differenza. Quindi, se l'Elemora fosse venuto stando nella sua, nel suo appartamento e non avesse creato fastidio alle altre 50.000 persone, nessuno si sarebbe sognato di dirgli niente. Certo. Nel momento in cui invece lui fa il disastro che ha fatto qui a Cortina, io mi sento anche in diritto di dirgli che vada a San Vito, dice, vada San Vito. Insomma, io speravo un po' più lontano, però non lo voleva. Senta, sindaco, nel ringraziarla, salutarla, Dario Vergasso e Marco Melloni sul Fatto Quotidiano invece l'hanno vista così domenica scorsa. Il sindaco di Cortina dichiara l'Elemora persona non gradita. Hanno già abbastanza neve. Beh, complimenti, insomma, là. La battuta dice le piace. No, non mi faccia dire di altro, no, che poi non prendo un'altra querela. Per carità, no, infatti, è una battuta di Dario Vergassolo e Marco Melloni. Ecco, che dovevo fare. La ringrazio, sindaco. Voi, buongiorno, giornata, Andrea Franceschi, sindaco di Cortina d'Ampezzo. Dunque, l'Elemora non ce lo vogliono più perché buttava caschi per il corso e quindi non va bene. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, parliamo degli scontri di Roma. Oggi il ministro Maroni riferisce in Parlamento. E il ministro Maroni dice: la gestione dell'ordine pubblico è stata ottima. Che ne pensate? Siete d'accordo? Votate su radio24.it oppure chiamateci 800 24 0024 tra poco. 24 mattino. Parliamo degli scontri a Roma, le 8:34 minuti, il nostro sondaggio. Quello che ci chiediamo è se secondo voi, come il ministro dell'Interno Maroni, c'è stata un'ottima gestione dell'ordine pubblico. Siete d'accordo? Io sono o blanco o nero. Gris, no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Su radio24.it votate il sondaggio. Per ora, nel nostro bianco o nero, il 66%, mi pare, il 66% dice di sì, c'è stata una gestione dell'ordine pubblico, anzi, 67% è salita per il momento la percentuale, dice un ordine pubblico gestito in maniera ottima. Tutti liberi, questa è l'altra notizia. Per la verità, uno dei 23 fermati è ai domiciliari, ma comunque tutti liberi, con le polemiche anche con il sindaco Alemanno che dice è un messaggio sbagliato. Ne vogliamo parlare di quello che è successo a Roma con il senatore Achille Serra dell'UDC. Buongiorno senatore. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Tra l'altro, una vita in polizia, questore, prefetto anche a Roma, insomma non ha bisogno di molte presentazioni il senatore Achille Serra. Voglio salutare, dare il ben ritrovato a Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista, il portavoce di Federazione della Sinistra. Buongiorno Ferrero. Buongiorno, salve a lei. Allora Serra, intanto facciamo un passo indietro. La polemica un po' si è sgonfiata, ma oggi ancora il ministro Maroni deve tornare sul Corriere della Sera su questa cosa degli infiltrati, definendola un'offesa. Non sono più quello che succede 30 anni fa, è stato archiviato, non è più i tempi di Giorgiana Masi, ed è un'offesa alle forze dell'ordine parlare di infiltrati. Ancora dobbiamo produrci ancora perdere del tempo su questo tema, senatore, secondo lei? Beh, veramente non bisognerebbe più perdere tempo. Questa degli infiltrati, che poi quando si parla di infiltrati è inutile nasconderci dietro a un dito, chi ne parla pensa immediatamente alle forze dell'ordine, e questa è veramente una cosa indecente, perché chi ha fatto ordine pubblico sa bene che questa cosa è assolutamente impossibile. Significherebbe dire che in piazza tutti poi erano con tutte le forze dell'ordine erano corresponsabili a copertura dei colleghi infiltrati. Ha ragione perfettamente Maroni, io la penso esattamente come lui. Se per infiltrati intendiamo quei professionisti della violenza che in ogni manifestazione che poi diventa disordine pubblico, se per quelli, se intendiamo i professionisti della violenza, allora ci sto, perché sì, la manifestazione degli studenti era pacifica e certamente si sono inseriti, così come si sono inseriti in altre città nel passato, i professionisti della violenza. Ora bisogna capire da dove vengono e da chi sono pagati questi infiltrati professionisti della violenza, ma lasciamo stare le forze dell'ordine che rischiano quotidianamente vita e che veramente è una cosa indegna parlarne male. Tra l'altro io ricordo 800 24 00 24 per intervenire in diretta, i vostri messaggi al 349 238 6666. Ferrero, vuole anche lei sulla questione infiltrati, e poi le chiedo invece, per entrare più sulla notizia del giorno, tutti liberi, il sindaco Lemanno dice un messaggio sbagliato. Ma se per infiltrati intendiamo che nelle manifestazioni, e anche quella del 14, ci fossero agenti in borghese non distinguibili per abbigliamento dai manifestanti. E questo è normale, insomma, in tutte le manifestazioni. Ecco, allora, se questo è normale, però, la cosa che segnalo è che è un po' difficile capire se per caso c'è anche chi fa cose che, diciamo, non sono stare con le mani in mano. E qua mi fermo, perché altrimenti, cioè, un conto sono gli agenti in borghese, questo ci sono, immagino, per controllare, insomma, gli agenti in borghese, ecco, lei dice che sono anche attivi nel creare, diciamo, problemi. Semplicemente che io penso che in una situazione normale non ci dovrebbero essere decine e decine di agenti in borghese mischiati in una manifestazione, perché io non ne capisco l'utilizzo. E in una condizione normale ci dovrebbe anche essere una situazione in cui si può fare una manifestazione senza che ci sia la costruzione di una cosiddetta zona rossa, come è stata fatta il 14, che in sé è un fatto che provoca cattiva gestione dell'ordine pubblico. Però mi scusi, allora, prima fatta a Genova nel 2001. Sì, sappiamo. È stata fatta a Roma l'altro giorno, quindi chi ha rifatto la zona rossa sapeva esattamente che cosa faceva. Però viene fatta situazione in tutto il mondo, dove ci sono i G8, i G7, viene fatta ormai dai tempi, insomma, di Seattle, questa zona. E tutte che è considerata le volte che c'è una zona rossa, cioè che il palazzo si chiude in sé, c'è immediatamente il punto di confine dove scoppiano dei, dice, da voler violare, però qualcuno dice, se non si mette sta zona rossa l'assalto ai palazzi c'è. In ogni caso, però, voglio non si è mai visto, ma è l'altro giorno al Senato anche. Comunque, prima di arrivare al tutti liberi, allora, senatore Serra, ci vuole rispondere, ci vuole chiarire su questo, gli agenti in borghese ci devono essere, ci sono, e Ferrero dice forse sono anche un po' troppi e forse fanno cose che non dovrebbero fare. Ma guardi, io ho diretto, come lei saprà, in aria di piazze, di manifestazioni di piazza, e le posso dire che guai se non ci fossero se non ci fosse personale in borghese, perché il personale in borghese, che è di soprattutto personale della Digos, è utilissimo, perché se si stacca un gruppetto che è ritenuto violento per andare, lo segnala immediatamente. Se ci sono ragazzi scrivono sui muri, lo segnala immediatamente, se non altro lo segnala al comune, perché cancelli immediatamente la scritta se irriguardosa. La gestione dell'ordine pubblico è difficilissima, non si può fare soltanto con personale in divisa per far mostrare i muscoli. Però Ferrero dice, il sospetto di Ferrero dice, mi fermo qui, però chissà se queste persone fanno anche qualcosa che non devono fare. Però il fermarsi qui non mi pare giusto, con tutto il rispetto per Ferrero, non mi pare giusto, perché diciamole le cose, se abbiamo elementi per dire che c'è stato qualche poliziotto che in borghese è andato oltre il suo dovere, lo si dica, ma non si può far passare il sospetto senza un minimo di elemento di prova. Ferrero, vabbè, al di là, lei non era a Roma, immagino, in piazza, non so se si basa sulle foto, per esempio c'è questo ragazzo in giacca beige, per 24 ore era l'agente infiltrato, ora scopriamo che è un minorenne figlio di un ex brigatista, almeno stando nelle informazioni. Comunque, passiamo oltre questo tema, le chiedo, tutti no, liberi? Solo una cosa per essere chiaro col prefetto Serra, perché l'ultima cosa che io voglio è seminare sospetti. La cosa che dico è che a mio parere l'utilizzo di agenti in borghese in misura molto massiccia e non semplicemente non ha le funzioni che dice il prefetto Serra, perché essendo che 10 sono una cosa, sì, 100 sono un'altra, e non si capisce hanno? Mai che cosa succede. E che funzione hanno, secondo lei? Come è successo a Genova, che magari chi sfasciava le robe è stato lasciato sfasciare. Quindi sto semplicemente dicendo che c'è un margine sul fatto che la gestione dell'ordine pubblico non sempre ha le caratteristiche che dovrebbero avere. E soprattutto ribadisco, e qui invece penso che c'entra proprio il governo, la costruzione della zona rossa è in sé un fatto, una cosa che non produce... le piace. Ma secondo lei, scusi, le faccio questa domanda diretta, Federico, secondo lei ci sono degli agenti in borghese che sono lì per fomentare incidenti? No, questo lo vedrà la magistratura. Lo vedrà la magistratura. Non fa il magistrato. Tutti liberi, Ferrero, che ne pensa? C'è da esultare, c'è da criticare la magistratura, c'è da dire hanno preso le persone sbagliate? No, la cosa che il messaggio di dire tutti liberi è sbagliato, perché invece questi ragazzi avranno un processo, semplicemente sì, al momento avranno un processo e semplicemente il magistrato ha ritenuto che non ci fossero pericoli particolari, cosa che mi sembra assolutamente normale, essendo che non è che c'è una situazione che si reitera da un giorno all'altro. Però questo permette di segnalare il problema, che secondo me è il problema principale che abbiamo, ed è di fronte a quello che è avvenuto il 14, pensiamo che il problema sia ad esempio di tenere dentro le 20 persone che hanno fermato? Sì, oppure il problema è di interrogarsi su cosa è effettivamente avvenuto il 14 e di prendere atto che probabilmente non era una questione di professionisti dello scontro che altro, sì, ma c'è stato un elemento di scontro che ha visto ragazzi e ragazze anche molto giovani dentro una roba di rabbia, di ribellione, non so come definirla altrimenti, che è la cosa vera con cui misurarsi. Se uno pensa di affrontarla in termini di ordine pubblico, non capisce che cosa è successo. Non è il modo giusto. Mi faccia dare un'ascoltatrice, la prima ascoltatrice, poi le informazioni sul traffico, poi torno dal senatore Serra. Dina da Roma, buongiorno. Dina. Buongiorno. Dica. Senta, volevo chiedere solo una cosa all'onorevole Ferrero. Si è mai reso conto per quale motivo la sinistra non è più al governo? Basta così, sì, così secca, Ferrero, dica. Sì, forse era riferita sì, anche alla sinistra non è più al governo, sì, perché non ha difeso gli strati popolari che doveva difendere. Le va bene Dina come risposta? Le va bene? Oppure lei cosa si riferiva? Al fatto che vede una... No, mi riferisco che con le idee dell'onorevole Ferrero non si va avanti, anzi si alimenta. Lui sta cercando di mettere contro la polizia. Noi eravamo a Roma, l'abbiamo visto. Che ha visto lei? Non ho potuto fare una visita medica al centro di Roma proprio per questo motivo, per quello che hanno potuto fare, non i poliziotti, le persone che erano lì, perché i ragazzi, l'abbiamo visto la stragrande maggioranza, con caschi, mazze e addirittura con delle piccole spranghe avevano. Di che cosa sta parlando l'onorevole Ferrero? Ma che pensa, che noi italiani abbiamo l'orecchino al naso? O noi romani dobbiamo sopportare una cosa di questo genere? Adesso faremo una cosa, sa quale cosa faremo? Faremo in modo che l'onorevole Alemanno, cioè il sindaco, chiunque questo sia, adesso c'è Alemanno, c'è sarà un altro, non si facciano più manifestazioni a Roma. Beh, addirittura... la città non può vivere sotto faccia... un conto la manifestazione dei studenti, un conto il resto. No, Dina, ma io capisco la sua rabbia e frustrazione, insomma, la manifestazione poi per gran parte, almeno nella percentuale, era manifestazioni pacifiche, dopodiché dire che non si può manifestare, insomma... Che facciamo? Prendiamo la Costituzione e la buttiamo da qualche parte? Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Salita al 68% la percentuale di chi dice ottima gestione dell'ordine pubblico. Che è successo ieri ad Anno Zero? È apologia di reato. E poi siete vigliacchi. Il tema è il fatto. Scusate, lei è un signori magistrati. Fifone, vigliacco. Ma guardi, lei è un La Russa, contro uno studente, vigliacco, fifone e vigliacco. Un incapace, fifone, vigliacco. Un attimo, un vigliacco. Ministro, sono dei vigliacchi. Ministro, molto più grave. Io c'ero in piazza. Ministro, io c'ero in piazza. Luciano da Salerno, buongiorno. Il clima buongiorno, è questo. Buongiorno, buongiorno. Volevo fare due considerazioni, sì. Una domanda al prefetto. Fondamentalmente, quando un ragazzo sfila in piazza, tutto il rispetto per farlo, però quando va col volto coperto non capisco perché non si prende e si arresta. Perché si vorrebbe, immagino, arrestarlo, è che a volte scappano, no? Sono i poliziotti in borghese, chissà, col volto mascherato va arrestato. Così come quando tre poliziotti hanno sotto un ragazzo che hanno preso, va soltanto arrestato e non manganellato e distrutto la testa. Cioè, certo, prefetto Serra, risponda all'ascoltatore che dice anche la polizia se fa degli abusi di potere, insomma, comunque interviene troppo duramente, va punita. Credo che tra l'altro questi video siano stati utilizzati proprio dagli avvocati difensori ieri per dire, vedete, anche la polizia ha usato metodi non ortodossi. Sì, vede, sono due domande e quindi per quanto riguarda la prima me la ricordi un attimo? Sì, che le persone che si presentano, gli studenti col volto coperto vanno, sì, arrestati. Vede, io non ho mai consentito che i cortei partissero se c'erano giovani con il volto coperto. Se sono giovani col volto coperto il corteo non parte, per quanto mi riguarda. Ma se il volto se lo coprono durante gli scontri, allora diventa estremamente difficile. Vede, bisogna essere esperti di piazza per comprendere queste cose. Mentre ci sono gli scontri, è difficilissimo poi andare a... Quando si riesce a mettere le manette a uno di questi, allora questo deve andare in carcere. E qui io non apro polemiche, non è mai uscita da me una parola contro le decisioni della magistratura, mai in tutti questi anni, perché ho un grande rispetto della divisione dei poteri, però questa volta io mi sento di dire no, la possibilità di reiterazione del reato c'è, come, perché a nessuno può sfuggire che lunedì la legge sull'università ritorna al Senato e che martedì e mercoledì certo, si voterà, certo. E quindi la possibilità che quegli episodi si possano riproporre. Ma le chiedo, poi, senatore, la possibilità che siano state prese delle persone magari sbagliate, cioè non quelle col volto coperto? Questo può essere, e allora immediatamente liberi, ma attenzione però, qui è stato convalidato il fermo, stato convalidato, il che significa che ci sono elementi e quindi vengono mandati in libertà, la provvisoria tecnicamente non è questo, ma non vengono prosciolti, per cui è sbagliato persona, via tutti a casa. No, ma questo è vero, non vengono tenuti in carcere perché non ci sono reiterazioni. Invece lei dice la reiterazione del reato, cioè perché questi mercoledì scendono in piazza nuovamente. C'è mai il rischio. Come in questo periodo, mai come e poi è vero che non compete ai magistrati, però è un messaggio devastante che viene dato a chi vuole fare violenza. Senta, il Ferrero dice la zona rossa è un errore in sé perché crea subito una zona che si vuole, come dire, violare da parte dei manifestanti, crea subito un messaggio di tensione, il potere che si rinchiude all'interno. Sì, io le dico che sono contrario alle zone rosse. Sono assolutamente contrario, mi ricordo il social forum di Firenze, tutto facemmo meno che adottare zone rosse, però questo presuppone un lungo dialogo con i manifestanti, un lungo dialogo, bisogna che la politica si renda conto che le forze dell'ordine non possono sostituire le carenze della stessa politica, e quando parlo di politica evidentemente mi riferisco al governo, bisogna che se si vuol fare una norma sulla università in questo modo, sia giusto o sbagliata, non è questa la sede per parlarne da parte mia, ma si parli con i giovani, si faccia comprendere, si cerchi di capire le ragioni dei giovani, perché se no si arriva alla giornata fatale del 14 dicembre senza che questo dialogo ci sia stato, e allora io poliziotto, io questore mi devo trincerare per non farmi per evitare sì, ma infatti, che ci siano ulteriori io ieri il commento che ho letto del prefetto Manganelli, capo della polizia, il colloquio fatto con l'unità abbastanza inquietante, quando ha detto insomma siamo un po' soli di fronte alle tensioni sociali, noi forze dell'ordine ad affrontare le situazioni. Cioè, non è che la polizia si vuole in questo paese con la polizia, con le forze dell'ordine, superare tutte le carenze che vengono dalla politica. Io penso, perché si arriva agli scontri sui rifiuti? Perché non si dialoga? Sì, perché non c'è risposta da parte delle sedi istituzionali, lei dice. Io, sì. Ferrero, lei ha fatto una dichiarazione subito dicendo la polizia ha fatto una macelleria messicana, questo è il 14. No, io se guardo bene la dichiarazione parlo del governo. Perché esattamente mi è chiarissima la cosa che dice il prefetto Serra, ed è il punto secondo me che non si sta discutendo in questi giorni, ed è incredibile che non si discuta. Qui il problema è che c'è una generazione di giovani, una generazione, non qualcuno, che si trova senza presente e senza futuro, perché gli hanno promesso che ci avrà un lavoro precario che gli dura tutta la vita . E in più adesso ci sono dei provvedimenti sulla scuola che gli taglia i soldi per la scuola pubblica, cioè l'unica cosa che gli si dice a un ragazzo di 18 anni o di 20 anni o di 25 è che lui starà peggio dei suoi genitori, e che non solo questo, che a lui gli dicono che non ci sono i soldi, non c'è la possibilità di avere un lavoro decente, e invece poi magari i soldi per le centrali nucleari, per il ponte sullo stretto, li trova. Però questo, non legittima quello che succede. Però, perché altrimenti è inutile che mi invita in trasmissione. No, Ferrero, e siamo a questo si tutti. Aggiunga una cosa, che la fiducia che c'è stata il 14 è stata una fiducia in cui tutti sanno che la maggioranza, il governo si è comprato dei parlamentari. Quindi c'è della gente adesso, che ha dei comportamenti... Cioè, sono voci, lo pensa lei. Lo penso io. Tutto il paese pensa che in Parlamento avvenga un mercimonio, sulla base di quello viene votata una fiducia che avrà come principale effetto probabilmente quella di fare una legge contro i giovani sull'università, e lei pensa che la manifestazione, quelli non dicono niente, è chiaro che c'è un disagio. Ma questo non legittima quello che è successo. Questo è il punto. Io non sto dicendo che legittima. No, però lei dice in questo contesto. Che quello è il fatto su cui discutere. Va bene, io però mi devo fermare qui, ma vede che la faccio parlare, insomma, non dica così, Ferrero. Che ringrazio col senatore Achille Serra dell'UDC, Alessandro Longoni in redazione, Peter Bescapè in regia. Che c'è la penna nera, l'ha portata Peter Bescapè, eccolo qua, il cappello con la penna nera mi guarda dalle 7:30 del mattino. Mannaggia Peter, me l'ha portata la penna nera a lunedì. Una penna nera.